9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 15 settembre, buon giovedì, primissimo flash, dura solo un minuto questo sul mercato e cosa si prevede oggi, perché è importante la giornata di oggi. Sapete che noi abbiamo una missione di servizio come Radio 24, quindi interrompiamo sempre la trasmissione, o comunque abbiamo un flusso continuo che riguarda i mercati finanziari. Avete sentito che la chiusura asiatica Nikkei è positiva, i future attualmente sono orientati positivi in vista dell'apertura. Vediamo come andranno i bancari, perché c'è ancora la coda del downgrading ieri delle banche francesi a Parigi, in previsione di un fine settimana complicato ancora per le trattative riservate in merito a come attuare il round di aiuti sulla Grecia, perché la Grecia non è in condizioni oggi, sui titoli che paga per il decennale, di poter fare nuove emissioni. Non può andare sul mercato se non arrivano i liquidi previsti a fine luglio dagli altri paesi nell'accordo greco. Importante anche la mattinata, perché bisogna vedere come il mercato, una volta che sarà aperto, sconterà le previsioni del centro studio di Confindustria, che stamattina fa il release delle sue previsioni del PIL italiano, della crescita, e noi purtroppo abbiamo il dovere di dirvi che le previsioni saranno al ribasso, in linea con quelle di Unicredit. Tutte le correzioni delle ultime due settimane sulle previsioni di PIL atteso per quest'anno e per l'anno prossimo sono al ribasso per due ragioni, ma ne parleremo ampiamente più avanti. Primo, perché c'è una frenata del commercio mondiale molto forte nell'ultimo trimestre, molto più forte delle attese, perché il rallentamento dei paesi avanzati, cioè gli Stati Uniti e dell'euroarea, si somma e moltiplica il rallentamento che era invece congiunturale per evitare il surriscaldamento dei paesi in via di sviluppo, che erano il traino, la locomotiva della crescita mondiale. Questo cosa significa? Significa che i paesi che sono sbocco delle nostre merci, visto che facciamo l'80% della crescita con l'export manifatturiero, rallentano molto la loro capacità di assorbimento, e quindi noi dobbiamo rivedere le attese di crescita per questa ragione, che è internazionale. E però purtroppo i dati, come vedrete fine mattinata, di rallentamento del commercio mondiale sono molto più forti di quello che ci si aspettasse, e questo è una cosa negativa per il nostro modello di crescita. In più, negli anni prossimi, ma questo è tutto aperto come capitolo, bisogna vedere gli effetti delle manovre che a luglio ed agosto, su pressione della BCE ad agosto, abbiamo dovuto adottare proprio ieri con il voto alla Camera finale. Ultimo flash, abbiamo anche l'obbligo di dirvi che per il fine settimana potrebbe arrivare un giudizio di Moody's sulla solvibilità del debito italiano. Bisogna vedere, perché c'è una finestra aperta da mesi da Moody's, una delle agenzie di rating, sul debito pubblico. Attenzione, perché ci sono due possibilità: primo, che le manovre vengano giudicate positivamente, nel qual caso il giudizio è confermato, e c'è la seconda possibilità, che il sviluppo verso il basso della crisi greca e delle banche francesi portino Moody's invece a un giudizio di abbassamento. In quel caso bisognerebbe vedere, perché sull'apertura poi dei mercati lunedì diventa una vera sfida per l'intera tenuta a quel punto dell'euro, perché siamo i primi euro emittenti. Quindi questo il quadro della giornata, ma chiusa parentesi, perché oggi abbiamo con noi il ministro della pubblica istruzione studio qui, Maria Stella Gelmini, che io saluto e ringrazio. Buongiorno ministro. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, come prevedevo, io ho lanciato la trasmissione, come ha sentito, con un taglio volutamente e dichiaratamente un po' provocatorio, ma non tanto per lo stile della casa mio, ma perché è ovvio, lei lo sa, ha rilasciato ieri un'intervista alla stampa, la posizione che ricopre è una delle più, tra virgolette, scomode di un governo italiano. Perché? Perché lei ha finito per diventare uno dei bersagli del dibattito pubblico italiano per via dei tagli, per via del... E quindi ieri ha lasciato questa intervista molto netta, che diceva, insomma, vogliamo fare un po' di chiarezza sui numeri della scuola italiana, che ha appena riaperto i battenti, e non è solo quella dei tagli. Apposta, cari ascoltatori, io ho usato prima un termine che sapevo, lo vedo dai vostri sms al 349-238-6666, vi ha fatto un po' saltare, perché dice azienda, la scuola non è un'azienda. Io un pochino apposta l'ho detto, perché naturalmente nessuno in questo paese pensa di rendere la scuola un'azienda privata, nessuno. Io quando dico azienda, però, dico che se vado e ripetiamo in questa radio, come sul Sole 24 Ore tutti i giorni, ripetendo che bisogna mettere ordine nei conti pubblici, bisogna fare in modo che le risorse siano commisurate all'efficienza dei servizi e soprattutto commisurate al fatto che le risorse sono poche e devono diventare meno, perché queste sono le manovre che approviamo. Il primo minuto l'ho fatto apposta per ricordarvelo. Allora non è che poi possiamo improvvisamente dire che, fatta questa debita premessa, non bisogna poi attuarle queste misure. Dopodiché è un paese complicato, dopodiché ci sono oltre 1 milione di dipendenti, dopodiché ci sono dati comparati, c'è una storia naturalmente di gap da colmare, di qualità della formazione, tutto quello che volete. Però io lo dichiaro, come sempre, la premessa della razionalizzazione di questi anni a me sembra una svolta condivisibile. Tante le polemiche aperte, me ne rendo conto, apriremo i microfoni, vi ascolteremo, inevitabilmente molti di voi lamenteranno infinite, infinite soluzioni ancora da adottare, ma il punto è: distruggere e criticare vi sembra un passo avanti poi per razionalizzare meglio? Oppure invece distruggere e criticare serve a eternare i tanti problemi che in tanti decenni abbiamo aperto, considerando la scuola, perdonatemi, un servizio più per chi ci lavora che per chi la frequenta, più un ammortizzatore sociale che è la più grande fabbrica di futuro in termini di capitale umano, che è uno dei requisiti di produttività? Questo è il mio punto di vista. Io so che sono minoritario rispetto a voi ascoltatori, ma questa è la mia premessa. E adesso, caro Ministro, iniziamo a vedere un pochino questi numeri. Quest'anno l'apertura della scuola ha coinciso con l'ennesimo aggiornamento del rapporto OCSE comparato. Da questo rapporto comparato escono punti di luce e punti di ombre, per così dire, nel senso che come percentuale di giovani diplomati e laureati si capisce che da una parte c'è anche una logica che si vede avanzare. La logica era quella di non continuare ad andare tutti verso l'università di massa, che tanto con l'università di massa abbiamo fatto l'esperimento in 20 anni, che non miglioriamo nel nostro mercato del lavoro, nella nostra produttività. Dall'altra però la questione è aperta, perché se guardiamo le graduatorie comparate di quanti diplomati e laureati abbiamo, non possiamo però pensare che da questo punto di vista ci siamo attrezzati al meglio. Guardiamo un secondo questi numeri comparati. Se andiamo oggi a vedere tra diplomati e laureati noi e gli altri paesi avanzati, fondamentalmente che cosa resta ancora da fare per tentare di colmare il gap, secondo me? Beh, innanzitutto riorganizzare l'offerta formativa e quindi avvicinare il mondo della scuola e dell'università alle lauree scientifiche, alle diplomi tecnici e quindi a quei profili formativi che riscontrano l'interesse del mercato del lavoro, l'interesse del settore produttivo. Cioè, noi abbiamo avuto una stagione della scuola e dell'università italiana in cui, come lei ha detto prima, si è guardato alla scuola esclusivamente come un luogo di spesa pubblica e di occupazione, dove si sono moltiplicate le cattedre, si sono moltiplicati gli indirizzi, ma tutto questo non ha prodotto risultati né in termini di diplomi, né di persone diplomate, né in termini di persone laureate. E peraltro, come lei sa, la disoccupazione, se quella media è intorno all'8% e quindi assolutamente in linea con la media europea, quando andiamo ad affrontare il segmento giovanile la disoccupazione è intorno al 27-28%. Abbiamo 2 milioni di giovani che non sono occupati né in un percorso di formazione né in un percorso lavorativo e abbiamo una forte dispersione scolastica. Questi risultati che noi abbiamo ereditato nel 2008 sono il frutto di una stagione che evidentemente non tornerà e che non deve tornare. Perché se quella impostazione che appunto ha voluto una scuola poco performante, falsamente egualitaria, che garantiva a tutti facilmente diplomi, ecco, quella scuola non ha prodotto risultati, ebbene noi abbiamo il dovere di cambiare. Ed è quello che questo governo ha cercato di fare nel 2008 e che se ne dica quest'anno, anche se alcuni giornali, alcune trasmissioni televisive vogliono accreditare l'idea che quest'anno sia un anno in cui sono forti le contestazioni e la scuola è nel caos. In realtà così non è, perché le contestazioni sono quelle che accompagnano l'avvio di ogni anno scolastico, mentre mi pare che alcuni punti sottolineati dalla relazione OCSE, ma che sono, come dire, consultabili attraverso l'ufficio statistica del Ministero, sono punti positivi. Pensiamo per esempio al tema della continuità didattica. Sappiamo che in passato c'è sempre stato il balletto delle cattedre, che c'era un grande avvicendamento di professori e tutto questo portava ad uno scadimento della qualità della scuola. Noi abbiamo imposto agli insegnanti di rimanere nella stessa cattedra almeno per 2 anni. Abbiamo peraltro assunto 30.000 nuovi giovani insegnanti, i quali non andranno a gravare sulla spesa pubblica, ma queste assunzioni per la prima volta vengono fatte a saldi invariati. Questo perché? Perché il nostro obiettivo è, da un lato, di completare il piano di razionalizzazione della scuola, così come stanno facendo altri settori, la sanità, la pubblica amministrazione, lo ha detto prima, ieri è stata approvata una manovra di 45 miliardi, quindi è chiaro che se in passato abbiamo speso oltre le nostre possibilità, oggi siamo chiamati a dare priorità ad alcuni settori e la scuola è uno di questi, ma dobbiamo migliorare l'investimento nel capitale umano, e migliorare l'investimento significa non aumentare il numero degli insegnanti, il numero delle ore di lezioni, ma fare un ragionamento qualitativo, basato sulla qualità dell'investimento, sulla qualità degli indirizzi, sulla qualità dell'insegnamento nella nostra scuola. Ed è un percorso ampiamente avviato. Noi abbiamo oggi potuto garantire più che in passato la continuità didattica, abbiamo ridotto la precarietà dal 17% al 10% e abbiamo comunque cominciato a fare investimenti strutturali. Penso per esempio agli 80 milioni di euro che l'anno scorso abbiamo investito nella scuola digitale per cambiare i luoghi dell'apprendimento, investimenti che proseguiranno durante questo anno scolastico, e devo dire che al netto delle solite polemiche, i nuovi indirizzi introdotti con la riforma della superiore hanno avuto una buona accoglienza da parte degli studenti, perché sono aumentate le iscrizioni negli istituti tecnici, ha avuto una buona accoglienza anche il liceo scientifico ad indirizzo tecnologico, il liceo musicale è stata una novità apprezzata dagli studenti, quest'anno la vera scommessa è rappresentata dall'istruzione tecnica superiore, quindi una formazione di terzo livello che fornisca al settore produttivo tecnici particolarmente qualificati, quindi ci sono novità importanti e ci sono alcuni risultati positivi. L'OCSE ha anche, devo dire, tolto elementi di polemica, come per esempio l'accreditare l'idea che la media di alunni per classe in Italia sia oltre i 30 studenti. L'OCSE dice che la media è intorno ai 22 studenti ed è inferiore alla media OCSE che è di 23. Quindi abbiamo dato il numero delle classi pollaio, sono 2000 classi con oltre 30 alunni su 350.000, quindi lo 0,6%. Si è parlato di una riduzione degli insegnanti di sostegno, in realtà sono 94.000 destinati ad aumentare. Quindi mi pare che, guardando i numeri, nel rispetto delle opinioni di tutti, però molte polemiche siano mal poste. Poi è chiaro che noi siamo consapevoli di aver imposto alla scuola una razionalizzazione che comporta dei sacrifici, comporta soprattutto la fatica di riorganizzare un comparto così significativo, ma è uno sforzo che noi dobbiamo fare, perché la stagione nella quale si approvavano le sanatorie in Parlamento e quindi si aumentava il numero degli insegnanti, la stagione nella quale si spendeva di più di quanto non fosse necessario per garantire il servizio, è una stagione finita. Allora, io inizio a farle delle osservazioni su questo, sì. Perché proprio nel rapporto OCSE si vede, il dato è quanto spendiamo per il comparto, e l'OCSE su questo dice: noi spendiamo il 4,8, voi avete commentato subito questo punto rispetto a una media del 6,1. Oltre a un commento su questo, che è un commento, intendiamoci, è ovvio che molti insegnanti, dipendenti della scuola, famiglie, studenti delle scuole medie superiori e università avrebbero, una delle critiche che le fanno è quella di non essersi battuto con più forza contro il ministro dell'economia per dire: guarda, riflettiamo, perché altri paesi europei, pur calando l'ascia sui conti pubblici, distinguono la scuola e la formazione, certo devono razionalizzare anche loro, però gli impongono dei contenimenti meno severi, anzi talvolta aumentano le spese precedenti. E quindi una delle critiche che le viene fatto in ragione di questa distanza ancora rispetto alle medie dell'OCSE di quanto si spende nel settore è quello di, come dire, non essersi immolata in uno scontro corpo a corpo col ministro. Le chiedo anche un'osservazione su questo secondo particolare, che riguarda una delle ragioni di fondo delle proteste degli insegnanti e dei dipendenti. L'OCSE mette in una tabella l'andamento delle remunerazioni medie dei dipendenti OCSE e quella dell'Italia. E si vede chiaramente che fino all'inizio degli anni 2000 l'andamento anno per anno, l'apprezzamento reale delle retribuzioni dei dipendenti della scuola italiana aveva una media che era significativamente più elevata degli avvaloramenti dei paesi OCSE. Dopodiché la curva si inverte, tant'è vero che il rapporto OCSE dice che negli ultimi 10 anni la retribuzione è aumentata solo dello 0,1%, e questo è uno dei grandi motivi di fondo anche che le viene imputata. Allora vediamo su questi due numeri, sì, lei che dice? Andiamo per ordine, partiamo dal rapporto OCSE, che in effetti sottolinea come l'investimento in Italia sia inferiore di circa l'1% rispetto alla media, ma dà anche una parziale giustificazione, nel senso che il rapporto OCSE dice che in parte questo punto in meno di investimento sul PIL è legato al fatto che in Italia gli investimenti privati sono intorno all'8%, mentre nella media OCSE sono del 16%. Quindi se noi vogliamo allinearci alla media OCSE dobbiamo anche affrontare il tema della scuola non in termini ideologici di contrapposizione tra la scuola statale e la scuola paritaria, ma dobbiamo cominciare a dire che gli investimenti privati devono aumentare, che non è uno scandalo che anche settori privati finanzino l'istruzione. Quando però si dice questo, in Italia si ha una sollevazione da parte dei sindacati, da parte delle corporazioni. Quindi se noi vogliamo aumentare l'investimento in istruzione, una parte va richiesta al all'ambito privato, e quindi questo credo che sia un punto importante. Sulla presunta mia non difesa dei fondi, chi è in Consiglio dei Ministri sa bene che non sono mancati momenti di tensione, di contrapposizione fra un ministero di spesa come quello dell'istruzione e il ministero dell'economia, ma al netto di questo voglio dire che la manovra che abbiamo appena varato fa salva la scuola, l'università e la ricerca, non ci sono tagli in questo settore. Credo che anche questa sia una scelta fondamentale. Detto questo, l'Italia ha anche il terzo debito pubblico del mondo, e il punto fondamentale è che noi abbiamo amplissimi margini per migliorare l'investimento nell'ambito della scuola. Cioè io quello che contesto non è solo la quantità di risorse, ma la modalità con cui sono state spese queste risorse nel tempo, e il fatto di avere un approccio quantitativo alla spesa e non qualitativo è ciò che ha penalizzato di più in termini di qualità dell'apprendimento, ma anche di condizione economica degli insegnanti la scuola italiana. Quindi io mi auguro che possa venire presto una stagione nella quale il paese riesca ad investire più risorse in questo settore, ma oggi il nostro compito era in primo luogo quello di ripensare l'investimento in istruzione e non di aumentare la spesa ordinaria, la spesa di funzionamento a discapito degli investimenti nella qualità, perché quando in un bilancio di una istituzione fondamentale come la scuola il 97% delle risorse viene impiegato per la spesa corrente e resta quindi una briciola per l'investimento nella qualità, cosa significa? Che nel tempo tutte le risorse che sono state destinate alla scuola sono state drenate dalle spese ordinarie, non sono state utilizzate per migliorare questo investimento. Quindi noi, prima di investire più risorse in una macchina con il motore rotto, dobbiamo sistemare il motore, poi ci metteremo più benzina. Ma oggi, se noi non guardiamo la realtà e non cerchiamo di passare, come ci chiede il federalismo, dalla spesa storica alla spesa standard, cioè se non quantifichiamo quanto costa effettivamente un servizio, facciamo un grandissimo errore. Soldi per la qualità non ce ne saranno mai. Allora sentiamo i primi flash di ascoltatori. Molti dicono aprite i microfoni. Avviso a tutti coloro che mi stanno mandando di chiedi al ministro questo, chiedi al ministro quello. Io non posso chiedere al ministro che cosa può fare, perché una nostra ascoltatrice dice: ah, mio figlio alla scuola media superiore c'è il professore che gli fa leggere Repubblica e gli fa sentire i DVD di Grillo. Guardate, non è una trasmissione fatta per segnalazioni di cose di questo genere. Dopodiché non lo so, cosa volete che vi dica? Ognuno è libero di far leggere, può parlarci lei intanto, signora, all'insegnante, o no, non lo so, ecco, tanto per dire, non credo che il ministro dall'altro debba intervenire per cose simili. Mauro da Torino innanzitutto. Mauro, prego, flash. Buongiorno dottore, buongiorno. Bene, buongiorno a lei, andiamo al punto. Allora, il punto è molto semplice, io faccio un intervento un pochettino fuori dai canone. Premetto che sono totalmente d'accordo con quello che si è detto adesso. Aia, e allora in minoranza anche lei adesso mi fa pensare che l'ho scelta. Io non scelgo le telefonate. No, allora, no, non mi rapido, scelto, Mauro. È stato puramente casuale. Siccome io sono un datore di lavoro e ho a che fare con le selezioni dei ragazzi che escono dalle scuole, sì. Io pretendo, perché comunque alla fine ormai le mie figlie sono grandi, io pretendo che la scuola mi dia come risultato delle persone preparate. E per ultimamente, negli ultimi anni, che cosa ha constatato? Si va su o si va giù? Si va molto giù. Si va molto giù, cioè qua l'idea è che l'istruzione sia poi demandata alle aziende che in questo momento sono in crisi di ossigeno, ok? Allora il problema è questo, io diciamo che pur essendo d'accordo con il ministro avrei fatto un intervento molto più radicale, perché dobbiamo dimenticarci che la scuola... Poi gli diamo la scorta armata al ministro, certo, più di quella che c'ha già però. Ma non è quello il discorso, è una questione di buonsenso. Allora la scuola serve per dare uno stipendio a chiunque o serve per formare i ragazzi? Secondo bene, me serve Mauro, per formare Mauro, i ragazzi. Abbiamo capito che lei dice c'è un'azienda, il problema è che sulla qualità di quello che mi arriva io devo investire ancora di più e non di meno. Pietro da Roma, rapidissimo anche lei. Guardi, io sono molto d'accordo sul fatto che la scuola sia un'azienda, ma non nel senso che deve guadagnare, ma nel senso che deve essere ben gestita. Ecco. In questo senso la mia domanda al ministro è veramente semplice. Io sono il direttore generale di una piccola azienda. Quando abbiamo bisogno di qualcuno che viene a lavorare da noi, facciamo delle selezioni, entro un certo periodo lo prendiamo perché ci serve. Nel mondo dell'università italiana sono anni che cambiano i sistemi di valutazione, le sostituzioni per i professori, i concorsi non vengono banditi. La domanda è semplice: quando verranno banditi i concorsi per l'università, per i nuovi docenti? Perché c'è una generazione italiana di ricercatori e professori che vuole progredire, i bravi passano, quelli non bravi vanno via, ma hanno bisogno di avere dei concorsi. Avete cambiato i sistemi di valutazione, avete cambiato i sistemi di... Chiarissimo Pietro, quindi la questione è quella dei concorsi, io devo andare in pubblicità con uno sgomento messaggio che mi arriva dai tecnici. Dice l'80% delle telefonate sono a favore del ministro. Io posso dirvi che lo sto leggendo in diretta, non è un campione assolutamente. Il ministro ride perché vorrebbe che fosse così nel paese, ma non è così. Può essere che oggi a Radio 24, siccome sono particolarmente provocatorio, le daremo asilo, signor ministro. A Radio 24 le daremo asilo. Detto questo, pubblicità e torniamo con le risposte ai due ascoltatori. Eccoci tornati qua in studio con il ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini. Avevamo due domande, una sulle aziende, insomma, chiedono ma la formazione che esce dalla scuola come si può fare perché scende, l'altra i concorsi all'università. Ora partiamo dai concorsi. Per quanto riguarda i nuovi posti da riservare ai ricercatori, questi sono già stati assegnati alle università, sono nella loro disponibilità e quindi è una procedura già avviata. Per quanto riguarda invece le abilitazioni nazionali per i posti da professore associato ed ordinario, è chiaro che la selezione andava fatta sulla base delle nuove regole introdotte dalla riforma e quindi da ottobre-novembre anche i posti per le abilitazioni saranno disponibili. Per quanto riguarda la formazione, l'esperienza degli ultimi due ascoltatori che sono intervenuti è un'esperienza abbastanza diffusa e quindi peraltro era un'esigenza sentita anche ai tempi del governo Prodi. Non a caso il ministro Fioroni aveva avviato attraverso la commissione De Toni il rilancio dell'istruzione tecnica che noi poi abbiamo completato, quindi credo che sia abbastanza stupido dividersi a livello politico anche su proposte che sono bipartisan e che appartengono al buonsenso e alla logica, per cui è chiaro che l'obiettivo della scuola italiana con qualsiasi governo deve essere quello di innalzare l'asticella della qualità della didattica, senz'altro per avere apprendimenti, competenze più elevate. Questo è ciò che noi stiamo cercando di fare. È chiaro che è un percorso lungo, ma credo che un cambio di impostazione per gestire bene la scuola e per migliorare la formazione dei ragazzi credo che fosse indispensabile. Allora, vediamo qualche altro dei capitoli che di solito vengono sollevati come argomenti polemici. Lei ha già citato il numero degli insegnanti di sostegno, uno dei temi sui quali è stata molto martellata la campagna manovra dopo manovra, sì. Torniamo quindi alla questione, è quella di come viene, è stato messo mano alla ristrutturazione della rete territoriale delle scuole. Bene. E quindi di fronte al fatto che ci sono alcune migliaia di scuole accorpate, per così dire, alcuni hanno detto qui questo è l'inizio dello smantellamento della vecchia concezione, che però molti difendono assolutamente, della scuola come servizio universale, un po' come le stazioni dei carabinieri, anzi mille volte di più delle stazioni dei carabinieri. Quindi la notizia è che poi i presidi diventavano, certo, molti presidi, tutti hanno detto ecco, si smantella. Allora, che la scuola sia un, come dire, un'istituzione fondamentale e capillare nel nostro paese, che svolga un ruolo importante anche nelle piccole comunità, è sicuramente vero. E l'obiettivo che noi ci siamo posti non è tanto quello di smantellare la scuola, quanto di garantire sicurezza nell'edilizia scolastica, perché l'Italia ha un patrimonio molto ampio di edilizia scolastica, ma non sempre è in grado di garantire la sicurezza. Ci sono su questi rapporti non solo del Ministero, ma anche per esempio di tante associazioni come Legambiente, che mettono in rilievo come ci sia un problema in alcune classi, in alcune scuole, in alcuni plessi di sicurezza. Allora noi cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo aggiornato l'anagrafe sull'edilizia scolastica, perché questo è un tema troppo importante per nasconderci dietro la competenza, che non è dello Stato, ma è, per quanto riguarda le scuole cosiddette dell'obbligo, dei comuni, e per quanto riguarda le scuole superiori era ed è al momento, non essendo stato ancora approvato il disegno di riforma costituzionale, delle province. Ma l'aggiornamento dell'anagrafe ci ha indicato le priorità di intervento e ci ha consentito anche di avere una mappatura precisa dei rischi legati alla poca sicurezza strutturale degli edifici, ma anche l'aggiornamento dei dati sulla sicurezza legata agli elementi non strutturali. Il caso di Rivoli, dove un ragazzo perse la vita, fu legato non ad un problema di staticità dell'edificio, ma a elementi non strutturali. Quindi noi abbiamo messo a disposizione degli uffici scolastici regionali, dei comuni e delle province questa mappatura. L'abbiamo fatta insieme. Abbiamo stanziato per l'edilizia scolastica 1 miliardo di euro. Stiamo difendendo queste risorse coi denti, anche gli ultimi 400 milioni attraverso una collaborazione anche con le regioni. Vogliamo che passino al CIPE, che siano presto messi a disposizione. È chiaro che laddove abbiamo verificato che alcuni plessi erano insicuri, quelle scuole sono state chiuse. La polemica che è sorta è nata dalla volontà del governo di procedere al dimensionamento degli edifici scolastici in accordo con comuni e province, ma siccome l'accordo non è stato raggiunto, il presunto smantellamento, la presunta riduzione della rete scolastica non è avvenuto, perché l'accordo in conferenza Stato-Regione non è stato raggiunto. Io però mi auguro che quanto prima si superino le differenze legate alle competenze e si proceda, perché innanzitutto dobbiamo garantire la sicurezza. In alcuni casi si tratta poi di plessi vicini, quindi attraverso un rafforzamento del trasporto pubblico è comunque possibile evitare disagi, ma non è che il governo sia partito dall'idea di smantellare o sia insensibile al tema della scuola come servizio. Noi vogliamo però non nasconderci dietro le competenze di altri per garantire la sicurezza degli edifici scolastici. Quello è un compito che attiene a tutti, dallo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, perché è un bene primario. E su questo oggi non tutte le scuole italiane sono sicure. Ecco perché siamo intervenuti, avevamo proposto il provvedimento sul dimensionamento. L'accordo non è stato trovato, speriamo quanto prima di trovarlo. È chiaro che poi, così come abbiamo trovato 1 miliardo di euro e sappiamo che non è sufficiente, dovranno essere reperite altre e nuove risorse. Allora, un altro dei punti, diciamo, ricorrenti, e quello di chi dice c'è un attacco alla scuola pubblica, non si fa abbastanza, prima di arrivare alle parità della scuola cattolica, cioè, ma sì, non si fa abbastanza contro i diplomifici privati, perché lì il sistema pubblico, la pubblica istruzione dovrebbe essere molto più severo nel dire ragazzi voi non potete fare comprare i titoli a chi paga perché alla scuola pubblica. Questo non è un tema, è un tema reale che noi però abbiamo affrontato sia all'interno della riforma della scuola che della riforma universitaria attraverso l'affermazione e il rafforzamento di un sistema di valutazione. Oggi noi ci dividiamo ancora fra chi difende la scuola statale, la scuola paritaria, è come se fossero due blocchi contrapposti. In realtà il nostro obiettivo deve essere quello di rafforzare la qualità dell'istruzione e dell'università, ma questo si fa non solo investendo nella scuola, ma anche misurando i risultati degli investimenti fatti. Oggi l'Italia non ha ancora un sistema di valutazione adeguato, tant'è che per quanto riguarda l'università, autorevoli giornali come il Sole 24 Ore, Repubblica, il Censis, ognuno ha un ranking delle migliori università, tranne il Ministero. Cioè lo Stato non è in grado ad oggi di offrire il ranking, l'elenco, diciamo la classifica delle migliori università. Questo perché? Perché il sistema di valutazione è ancora ad un livello embrionale. Se noi vogliamo introdurre trasparenza ed efficienza, abbiamo il dovere di offrire ai cittadini le informazioni per capire come viene speso il denaro da loro pagato attraverso le tasse universitarie, attraverso la tassazione normale. Allora, il potenziamento dell'INVALSI, che è l'agenzia di valutazione della scuola, e il meccanismo dell'accreditamento nell'università, che dovrà portare all'abolizione del valore legale del titolo di studio, sono i due strumenti attraverso i quali introdurre trasparenza, informare i cittadini e misurare i risultati raggiunti. Solo così possiamo davvero evitare i diplomifici e quindi anche fare un corretto orientamento degli studenti. Oggi quando gli studenti devono passare dalla scuola media alla scuola superiore o dalla scuola superiore all'università, scelgono sulla base così dell'inclinazione personale, ma non hanno a disposizione le informazioni per fare scelte consapevoli. Noi vogliamo mettere le famiglie, i genitori e i ragazzi nelle condizioni di poter scegliere le migliori università, i migliori licei, i migliori istituti tecnici. Per fare questo serve la valutazione, che non è un elemento per penalizzare gli insegnanti, ma è un elemento fondamentale per misurare i risultati del sistema scuola e università. Eccoci tornati qui in studio, siamo con il ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini. Rapide telefonate, veramente rapidissimi flash, arrivate subito al punto. Giorgio dalla provincia di Cuneo, prego Giorgio. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Premetto che io non sono un insegnante ma un agente di commercio. Dato di fatto che qualsiasi dipendente rende di più se viene incentivato, mi chiedo come i nostri insegnanti, gli insegnanti dei nostri figli vadano con entusiasmo a scuola quando, oltre ad avere lo stipendio più basso della media europea, gli è stato bloccato il rinnovo di contratto non so per quanti anni e anche lo scatto di anzianità. No. Perfetto, Giorgio, chiaro. Ha detto adesso, sentiamo il ministro cosa dice subito. Mettiamo due telefonate. Aspetti un secondo. Sì. Giulia da Varese, Giulia. La mia domanda è semplicissima. Volevo proprio capire qual è il futuro nella scuola a riguardo della disabilità. Visto l'anno scolastico iniziato, visto che avevamo delle schede in mano giuridiche dove ci dicevano che gli alunni disabili devono avere praticamente delle classi sulla 20 alunni, abbiamo già delle classi con 28 alunni con due disabili. Allora mi chiedo davvero qual è il futuro nella scuola. Lei ci chiama da Varese, abbiamo detto. Sì, sì, perché effettivamente ci sono stati già degli esperimenti dove nelle scuole pensano ancora di unire tutti i disabili insieme. Perfetto, allora Giulia, questa chiara domanda, vedere un po' cosa fare su questo punto alla luce di come stanno andando oggi le cose. L'ultima telefonata, poi il ministro risponde finalmente. Davide, che chiama da Verbania. Prego Davide. Pronto, buongiorno, sono un insegnante invece. Si parla male della scuola in Italia, ma c'è da tener conto che ci sono 30.000 laureati che ogni anno vanno all'estero. Evidentemente queste persone qui trovano lavoro e sono capaci, sono apprezzate. Questa perdita di personale, su queste persone hanno per la loro formazione sono stati spesi dei soldi e si parla di miliardi di euro. Sì. Quindi in qualche modo questa uscita di personale qualificato per noi è una gravissima perdita. Infatti da anni si pensa di riattirarli, ci siamo anche un pochino, ci abbiamo provato. Il problema è anche attirare formazione dai paesi emergenti, che è un'altra maniera per incrociare poi il bilancio complessivo del capitale umano. La domanda? L'italiano non è così scarsa. Seconda cosa, per quanto riguarda la riforma, non sono contrario ai tagli in assoluto, ma come sono stati fatti? Perché in pratica sono state ridotte le ore di lezione per ogni classe e fin qua siamo d'accordo, ma poi in pratica sono state aumentate le materie. Ogni insegnante sa che la sua efficacia con gli studenti, la capacità, la possibilità didattica dipende moltissimo da quante ore passa con gli studenti. In pratica un insegnante adesso si ritrova con 2 o 3 ore a settimana con gli studenti, che praticamente fa sì che la sua efficacia sia minima, venga quasi nulla. Grazie Davide. Allora qui abbiamo 3 questioni complessive: disabilità, come sono stati fatti il rapporto ore rispetto a aumento degli insegnamenti e quindi diminuzione della capacità di radicamento di formazione dei docenti con i nuovi programmi. Allora, sulla disabilità mi pare che dobbiamo riconoscere che la presenza degli insegnanti di sostegno e l'attenzione a questo tema, al tema della disabilità, siano uno dei fiori all'occhiello della scuola italiana. Quindi credo che sia sbagliato un certo catastrofismo, un certo pessimismo che si vuole che si vuole introdurre quando si ragiona di qualsiasi tema e quindi anche della scuola. La disabilità viene trattata con rispetto, con attenzione, con cura e siccome i numeri sono diversi dalle opinioni, non si può non riconoscere che quest'anno l'avere più di 94.000 insegnanti rappresenti il picco massimo di insegnanti di sostegno mai avuto dalla scuola italiana. Rispetto a questo voglio dire che abbiamo anche approvato una legge su un tema diverso, ma che dà l'idea di come la scuola italiana sia per la personalizzazione del corso di studi. Mi riferisco alla legge sui disturbi specifici dell'apprendimento, sulla dislessia, sulla discalculia. Anche in questo caso stiamo applicando le migliori pratiche, abbiamo dato agli uffici scolastici regionali, ai presidi, agli insegnanti un modello per affrontare questi disturbi in maniera puntuale e in maniera appropriata. Credo che sia un altro elemento positivo. Sul tema della remunerazione, vedete, gli insegnanti sono i primi ad aver pagato l'impostazione 68ina della scuola con un falso egualitarismo, con una scuola come luogo di occupazione, con stipendi bassi, performance basse, e questo ha prodotto remunerazioni scarse, ma anche un sistema legato solo all'anzianità, al trascorrere del tempo. La prossima sfida della scuola sarà quella di introdurre la carriera, percorsi professionali legati non solo all'anzianità, all'esperienza, ma anche legati al merito, legati alla disponibilità ad aggiornarsi, legati appunto ai risultati che poi gli studenti ottengono negli apprendimenti. Tutto questo però significa non livellare gli insegnanti e fare in modo che siano tutti uguali, ma distinguere tra gli insegnanti più bravi e quelli meno bravi. Quando si introduce questo tema, spesso i sindacati insorgono, ma il prossimo punto sarà proprio questo: riformare il reclutamento e garantire la carriera agli insegnanti. Solo da qui si potrà, in qualche modo incentivare gli insegnanti a fare meglio dentro la scuola e quindi migliorare il sistema nel suo complesso. Le posso fare una domanda? Sì. Sono messo finale perché abbiamo pochi secondi. Ma se il ministro della pubblica istruzione una mattina, dopo aver letto che c'è un liceo da qualche parte, diciamo in Calabria, perché sappiamo tutti dov'è e qual è, che ogni anno inizia a regalare il massimo dei voti e quindi compromette esattamente quella logica del merito, che significa merito sia di capacità di insegnamento degli insegnanti sia poi degli studenti, quindi alla fine come si fa a giudicare? Ma se il ministro a quel punto un giorno si arrabbiasse e dice: ora telefono e dico che mi caccino il dirigente scolastico. Viene carcerato quel ministro, naturalmente, non, subito. No, la possibilità di cacciare non esiste, però il divario nord-sud e questi tentativi di regalare i 100 lode per esempio alla maturità sono stati individuati e attraverso l'Invalsi stiamo cercando di introdurre prove standard per rendere omogeneo il giudizio e quindi il voto sull'esame di maturità. Peraltro abbiamo anche utilizzato i fondi europei per formare gli insegnanti e negli apprendimenti misurati con le prove standard, per esempio la Campania, la Puglia, hanno avuto grandissimi miglioramenti, a significare che si sta lavorando per ridurre il divario nord-sud e per rendere omogenea la qualità della scuola, perché l'ultima telefonata il signor Davide diceva si parla male della scuola. In realtà ci sono punte d'eccellenza, ci sono però troppe diversità nei livelli qualitativi. Dobbiamo cercare di compiere uno sforzo per garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche, dal luogo di residenza, una formazione adeguata. E questo è il percorso. Io devo ringraziare il ministro, spero tutti gli ascoltatori che mi hanno accusato di cose innominabili di non pensare che ci siano rapporti di nessun tipo, non ci sono tra me e il ministero, vi posso garantire. Vi dico solo che ogni tanto resto perplesso nel vedere come i miei autorevoli colleghi trattano questo tema, incitandovi a pensare che ci sia una specie di smantellamento sordidamente frutto di una cospirazione torbida della scuola pubblica, perché lì ci sono i valori della democrazia e in questi anni ci sarebbero invece naturalmente i barbari che la stanno distruggendo. Io mi permetto di sorridere di fronte a queste cose, ma naturalmente so che la maggioranza di voi, moltissimi di voi, pensano invece che sia così. Forse se impariamo a dialogare invece che a avere pregiudizi è meglio per tutti. Grazie signor ministro, appuntamento. Grazie domani con noi, Linea Giornale Radio. 9 in punto.